terzo anello ad alta voce. Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Alla fine dell'inverno, Leone Ginzburg tornò a Torino dal penitenziario di Civitavecchia dove aveva scontato la pena. Aveva un paltò troppo corto, un cappello frusto, il cappello piantato un po' storto sulla nera capigliatura. Camminava adagio con le mani in tasca e scrutava attorno con gli occhi neri e penetranti, le labbra strette, la fronte aggrottata, gli occhiali cerchiati di tartaruga nera piantati un po' bassi sul suo grande naso. Andò a stare, con sua sorella e sua madre, in un alloggio dalle parti di Corso Francia. Era vigilato speciale, cioè doveva rientrare appena faceva buio e venivano gli agenti a controllare se era in casa. Passava le serate con Pavese. Erano amici da molti anni. Pavese era tornato da poco dal confino ed era allora molto malinconico, avendo sofferto una delusione d'amore. Veniva da Leone ogni sera. Appendeva all'attaccapanni la sua sciarpetta color lilla, il suo paltò a martingala e sedeva al tavolo. Leone stava sul divano, appoggiandosi col gomito alla parete. Pavese spiegava che veniva là non per coraggio, perché lui di coraggio non ne aveva, e nemmeno per spirito di sacrificio. Veniva perché se no non avrebbe saputo come passar le serate e non tollerava di passar le serate in solitudine. E spiegava che non veniva per sentir parlare di politica, perché lui della politica se ne infischiava. A volte fumava la pipa tutta la sera in silenzio. A volte, avviluppandosi i capelli attorno alle dita, raccontava i fatti suoi. Leone, la sua capacità d'ascoltare era incommensurabile e infinita, e sapeva ascoltare i fatti degli altri con profonda attenzione, anche quando era profondamente assorto a pensare a se stesso. Poi veniva la sorella di Leone a portare il tè. Lei e la madre avevano insegnato a Pavese a dire in russo «Io amo il tè con lo zucchero e col limone». A mezzanotte Pavese agguantava dall'attaccapanni la sua sciarpa, se la buttava svelto intorno al collo e agguantava il paltò. Se ne andava giù per il Corso Francia, alto, pallido, col bavero alzato, la pipa spenta fra i denti bianchi e robusti, il passo lungo e rapido, la spalla scontrosa. Leone stava ancora un pezzo in piedi accanto allo scaffale, tirava fuori un libro e si metteva a sfogliarlo e vi leggeva come a caso, lungamente, con le sopracciglia aggrottate. Stava così, leggendo come a caso, fino alle 3. Leone cominciò a lavorare con un editore suo amico. Erano soltanto lui, l'editore, un magazziniere e una dattilografa che si chiamava signorina Coppa. L'editore era giovane, roseo, timido e arrossiva spesso. Aveva però, quando chiamava la dattilografa, un urlo selvaggio. «Coppa!» Cercarono di convincere Pavese a lavorare con loro. Pavese recalcitrava, diceva «me ne infischio». Diceva «Non ho bisogno di uno stipendio, non devo mantenere nessuno, per me mi basta un piatto di minestra e il tabacco». Aveva una supplenza in un liceo, guadagnava poco ma gli bastava. Poi faceva traduzioni dall'inglese, aveva tradotto Moby Dick, l'aveva tradotto, diceva, per suo puro piacere, e l'avevano sì pagato, ma l'avrebbe fatto anche per niente, anzi avrebbe pagato lui stesso per poterlo tradurre. Scriveva poesie. Le sue poesie avevano un ritmo lungo, strascicato, pigro, una specie di amara cantilena. Il mondo delle sue poesie era Torino, il Po, le colline, la nebbia e le osterie di Barriera. Alla fine si persuase, entrò anche lui a lavorare con Leone in quella piccola casa editrice. Diventò un impiegato puntiglioso, meticoloso, brontolando contro gli altri due che venivano tardi nella mattinata e se ne andavano magari a pranzo alle 3. Lui predicava un orario diverso, veniva presto e se ne andava all'1 precisa, perché all'1 la sorella con la quale viveva metteva la minestra in tavola. Leone e l'editore ogni tanto si litigavano, non si parlavano per qualche giorno, poi si scrivevano lunghe lettere e si riconciliavano così. Pavese, lui, se ne infischiava. Leone, la sua passione vera, era la politica. Tuttavia, aveva, oltre a questa vocazione essenziale, altre appassionate vocazioni, la poesia, la filologia e la storia. Essendo venuto in Italia bambino, Leone parlava l'italiano come il russo. Parlava tuttavia sempre il russo in casa con la sorella e la madre. Loro uscivano poco e non vedevano mai nessuno e lui raccontava nei più minuti particolari di ogni cosa che aveva fatto e di ogni persona che aveva incontrato. Gli piaceva, prima di andare in carcere, frequentare salotti. Era un conversatore brillante, benché parlasse con una leggera balbuzie, ed era, benché sempre profondamente assorto a pensare e a fare cose serie, tuttavia disposto a seguire la gente nei pettegolezzi più futili, essendo curioso della gente e dotato di una grande memoria che accoglieva anche le più futili cose. Ma quando ritornò dal carcere, non lo invitarono più nei salotti, e anzi, la gente lo sfuggiva, perché era ormai noto a Torino come un pericoloso cospiratore. Non gliene importava niente. Sembrava quei salotti averli totalmente dimenticati. Ci sposammo, Leone ed io, e andammo a vivere nella casa di via Pallamaglio. Mio padre, quando mia madre gli aveva detto che lui voleva sposarmi, aveva fatto la solita sfuriata che usava fare in occasione d'ogni nostro matrimonio. Questa volta non disse che lui era brutto, disse: «Ma non ha una posizione sicura». Leone, infatti, non aveva una posizione sicura. Anzi, l'aveva quanto mai incerta. Potevano arrestarlo e incarcerarlo di nuovo. Potevano, con un pretesto qualsiasi, mandarlo al confino. Se però finiva il fascismo, disse mia madre, Leone sarebbe diventato un grande uomo politico. Inoltre, la piccola casa editrice in cui lavorava era, benché ancora così piccola e povera, tuttavia rigogliosa di energie promettenti. Disse mia madre, stampano anche i libri di Salvatorelli. Il nome di Salvatorelli era per mio padre e mia madre dotato di magici poteri. Mio padre si faceva quel nome benevolo e mansueto. Mi sposai e immediatamente dopo che mi ero sposata, mio padre diceva, parlando di me con estranei, mia figlia Ginsburg, perché lui era sempre prontissimo a definire i cambiamenti di situazione e usava dare subito il cognome del marito alle donne che si sposavano. Aveva due assistenti, un uomo e una donna che si chiamavano lui Olivo, lei Porta. Olivo e la Porta poi si sposarono insieme. Noi continuammo tuttavia a chiamarli Olivo e la Porta e mio padre ogni volta s'arrabbiava. Non è più la Porta! Ditela Olivo! Thank you. Era morto in Spagna in combattimento il figlio di Giua, quel ragazzo pallido con gli occhi accesi che a Parigi stava sempre con Mario. Suo padre, in carcere a Civitavecchia, rischiava di diventare cieco per un tracoma. La signora Giua veniva spesso a trovare mia madre. Si erano conosciute in casa della Paola Carrara e avevano fatto amicizia. Decisero di darsi del tu. Mia madre, però, continuò a chiamarla come prima, signora Giua. Le diceva «tu, signora Giua», perché aveva cominciato così e le riusciva difficile cambiare. La signora Giua veniva con la sua bambina, che si chiamava Lisetta, e aveva circa 7 anni meno di me. Lisetta era identica al fratello Renzo, alta, magra, pallida, diritta, con gli occhi accesi, con i capelli corti e un ciuffo sulla fronte. Andavamo insieme in bicicletta e mi raccontò che vedeva a volte un antico compagno di scuola di suo fratello Renzo al liceo d'Azeglio, che veniva a trovarla e le imprestava i libri di croce ed era molto intelligente. Fu così che io sentii parlare di Balbo per la prima volta. «Era un conte», mi disse Lisetta. Me lo indicò una volta per strada, sul Corso Umberto, piccolo, col naso rosso. Balbo doveva diventare, tanti anni dopo, il mio migliore amico. Ma io allora certo non lo sapevo, e lo guardai senza nessun interesse, quel piccolo conte che imprestava a Lisetta i libri di croce. Vedevo a volte passare sul Corso Re Umberto una ragazza che mi sembrava odiosa e bellissima, con un viso come intagliato nel bronzo, un piccolo naso aquilino che tagliava l'aria, gli occhi socchiusi, i passi lenti e sprezzanti. Chiesi a Lisetta se sapeva chi era. «Quella», mi disse Lisetta, «è una del D'Azeglio, che va bene in montagna e che si dà molta importanza». «È odiosa», dissi. «Odiosa e molto bella». La ragazza odiosa abitava in una traversa del corso al pian terreno. Io la vedevo a volte d'estate, affacciata alla finestra, che mi guardava con gli occhi socchiusi, le labbra sprezzanti e disgustate, i bruni capelli tagliati alla paggio intorno alle bronzee gote, l'espressione annoiata e misteriosa. Dissi a Lisetta: «È proprio una faccia da schiaffi». Per molti anni, quando fui lontana da Torino, portai dentro di me l'immagine di quella faccia da schiaffi. E quando più tardi mi dissero che la faccia da schiaffi s'era impiegata alla casa editrice e che lavorava con Pavese e con l'editore, rimasi stupita che una ragazza tanto superba e sprezzante avesse degnato di scendere tra persone così umili e vicine a me. Poi seppi che era stata arrestata in un gruppo di cospiratori e rimasi ancora più stupita. Ma dovevano passare ancora anni prima che ci rincontrassimo e prima che diventasse lei, la faccia da schiaffi, la mia amica più cara. Lisetta, oltre a leggere i libri di croce, leggeva anche i romanzi di Salgari. Era allora sui 14 anni, cioè un'età in cui uno va e viene di continuo, incessantemente, tra la maturità e l'infanzia. Io i romanzi di Salgari li avevo letti e dimenticati, e Lisetta me li raccontava quando, posate le biciclette sull'erba, sedevamo a riposarci nella campagna. Nei suoi sogni e nei suoi discorsi si mescolavano marajà indiani, frecce avvelenate, i fascisti e quel piccolo conte di nome Balbo che la domenica veniva a trovarla e le portava i libri di croce. E io l'ascoltavo con l'orecchio tra divertito e distratto. Quanto a me, io di croce non avevo letto nulla, se non la letteratura della Nuova Italia, o meglio, avevo letto nella letteratura della Nuova Italia i sunti dei romanzi e le citazioni. Tuttavia, all'età di 13 anni, avevo scritto a Croce una lettera e gli avevo mandato alcune mie poesie. E lui mi aveva risposto con grande gentilezza, spiegandomi garbatamente che le mie poesie non erano troppo belle. Mi guardavo bene dal confessare a Lisetta che non conoscevo i libri di croce, perché non volevo deluderla, data la stima che lei m'accordava, e mi confortava il pensiero che, se io non avevo letto Croce, Leone però l'aveva letto tutto, da cima a fondo. Il fascismo non aveva l'aria di finire presto. Anzi, non aveva l'aria di finire mai. Erano stati uccisi a Bagnoles dell'Orne i fratelli Rosselli. Torino da anni era piena di ebrei tedeschi fuggiti dalla Germania. Anche mio padre ne aveva alcuni nel suo laboratorio come assistenti. Erano dei senza patria. Forse tra poco saremmo stati anche noi dei senza patria, costretti a girare da un paese all'altro, da una questura all'altra, senza più lavoro, né radici, né famiglia, né case. Alberto mi chiese, dopo che ero sposata da qualche tempo, «Ti senti più ricca o più povera adesso che sei sposata?» «Più ricca», dissi. «Anch'io. E pensare che invece siamo tanto più poveri». Io compravo la roba da mangiare e trovavo che tutto costava poco. Ero stupita perché avevo sempre sentito dire che i prezzi erano alti. Soltanto a volte, prima della fine del mese, mi ritrovavo senza un soldo, avendo speso a forza di 30 centesimi tutti i soldi che avevo. Ero contenta adesso quando qualcuno ci invitava a pranzo, anche se erano persone che non mi piacevano. Ero contenta di poter mangiare, una volta tanto, cibi imprevisti e gratuiti e che io non avevo né pensato, né comprato, né guardato cuocere. Avevo una donna che si chiamava Martina. Mi era molto simpatica. Pensavo però, chissà se fa bene la pulizia. Chissà se spolvera bene. Nella mia totale inesperienza non riuscivo a capire se la mia casa era pulita o no. Quando andavo a trovare la Paola o mia madre, vedevo nelle loro case vestiti appesi nella stanza da stiro per essere spazzolati e smacchiati con la benzina. Subito mi chiedevo preoccupata, chissà se la Martina i nostri vestiti li spazzola qualche volta e li smacchia. In cucina da noi c'era sì una spazzola e anche una boccetta di benzina tappata con uno straccio, ma quella boccetta era sempre piena. Non vedevo che la Martina la usasse mai. Volevo a volte dire alla Martina di fare grosse pulizie in casa, come vedevo fare in casa di mia madre, quando la Natalina, con un turbante in testa come un pirata, buttava all'aria i mobili e li scudisciava col battipanni. Ma non trovavo mai il momento giusto di dare ordini alla Martina. Ero timida con la Martina, la quale era, dal canto suo, timidissima e mite. Scambiavo con lei, incontrandola nel corridoio, lunghi, affettuosi sorrisi, ma rimandavo da un giorno all'altro il proposito di suggerirle grandi pulizie. Non osavo d'altronde darle alcun ordine. Io che da ragazza, in casa di mia madre, davo ordini con indifferenza, esprimevo ad ogni istante la mia volontà. Ricordavo che quando eravamo in villeggiatura in montagna, mi facevo portare in camera ogni mattina grandi secchi e brocche d'acqua calda, perché non essendovi là il bagno, mi lavavo in camera in una specie di semicupio. Mio padre predicava che ci si lavasse con l'acqua fredda, ma nessuno di noi, salvo mia madre, aveva l'abitudine di lavarsi con l'acqua fredda. Anzi, tutti noi figli avevamo in odio l'acqua fredda, fin dalla più lontana infanzia, per spirito di contraddizione. Ora, io mi stupivo ad aver potuto costringere la Natalina a scaldare l'acqua sulla stufa a legna e a fare le scale con quei grandi secchi. Alla Martina non avrei osato ordinare di portarmi nemmeno un bicchiere d'acqua. Avevo di colpo scoperto, sposandomi, la fatica e il lavoro. E me n'era venuta una pigrizia che languidiva la mia volontà e anchilosava nel mio pensiero le persone che mi circondavano. Per cui non sognavo intorno a me che un'assoluta inerzia, e alla Martina mi studiavo di ordinare per il pranzo pietanze che si preparassero in fretta e sporcavano pochi tegami. Avevo scoperto anche il denaro. Non che fossi diventata avara, sono sempre stata come mia madre con le mani bucate, ma avevo individuato, dietro alle cose, la presenza del denaro come una faticosa e tortuosa complicazione che sulla traccia di 30 centesimi poteva portare chissà dove, a destinazione ignota. E anche da questo ricavavo un senso di fatica, di pigrizia e di languore. Tuttavia non mancavo, quando avevo del denaro in mano, di spenderlo subito, pentendomi immediatamente d'averlo speso. Avevo avuto nella mia adolescenza tre amiche. Le mie amiche erano chiamate in famiglia le squinzie. Squinzie significava, nel linguaggio di mia madre, ragazzine smorfiose e vestite di fronzoli. Quelle mie amiche non erano, a me sembrava, né tanto smorfiose né tanto vestite di fronzoli. Ma mia madre le chiamava così riferendosi al tempo della mia infanzia e a certe bambine smorfiose in fronzoli che forse allora usavano giocare con me. «Dov'è la Natalia?» «È dalle sue squinzie», si diceva sempre in famiglia. Quelle mie amiche le avevo dagli anni del liceo e passavo, prima di sposarmi, le giornate con loro. Erano povere. Anzi, forse tra le cose che m'attraevano in loro c'era proprio la povertà, che io non conoscevo, ma che amavo e avrei voluto conoscere. Dopo sposata, continuai a frequentare quelle tre ragazze, ma un po' meno, e lasciando passare giorni e giorni senza cercarle, cosa che loro usavano rimproverarmi, pur comprendendo che era inevitabile che fosse così. Tuttavia, vederli ogni tanto mi rallegrava e mi restituiva per un attimo alla mia adolescenza che sentivo sfuggire alle mie spalle. Tutte e tre quelle mie amiche, per varie ragioni, vivevano in aperto dissidio con la società. La società si configurava ai loro occhi nella vita facile, ordinata, borghese, fatta di orari regolari, di cure ricostituenti, di studi sistematici e controllati in famiglia. Io questa vita facile, prima di sposarmi, l'avevo e ne godevo i molti privilegi, ma non l'amavo e aspiravo a uscirne. Cercavo, con quelle mie amiche nella città, i luoghi più tristi per i nostri convegni, i più desolati giardini pubblici, le più squallide latterie, i cinematografi più sudici, i caffè più disadorni e deserti. E ci sentivamo, al fondo di quelle squallide penombre o in quelle fredde panchine, come su una nave che abbia spezzato gli ormeggi e navighi alla deriva. Due delle squinzie erano sorelle e vivevano sole con un vecchio padre, il quale era stato ricchissimo in passato ed era andato in rovina e aveva traffici con avvocati per una sua causa. Assorto sempre a scrivere lunghi memoriali e a fare la spola fra Torino e Sassi e fra Sassi e Torino, avendo ancora a Sassi una piccola proprietà, cucinando complicati piatti ebraici che alle figlie non piacevano, questo vecchio padre viveva nell'assoluta ignoranza di quello che facevano le sue figlie, le quali d'altronde non facevano nulla di straordinario, essendosi creato un codice di vita nel quale l'autorità paterna, fatta soltanto di qualche strillo occasionale e querulo, non aveva il minimo peso. Erano due ragazze alte, belle, brune e floride. Una era pigra e sempre sdraiata su un letto, l'altra energica e risoluta. Quella pigra trattava il padre con insofferenza bonaria, l'altra lo trattava con insofferenza recisa e sprezzante. Quella pigra aveva occhi lunghi da araba, boccoli neri e molli e una tendenza alla pinguedine e un grande amore per i ciondoli e gli orecchini. E benché affermasse di esecrare la sua pinguedine, non faceva nulla per combatterla ed era nella sua pinguedine profondamente lieta e serena. E osava dire di sé, con un sorriso che le scopriva i denti candidi, grossi e sporgenti sulle labbra, «Nigra sum, sed formosa». L'altra era magra e voleva essere ancora più magra, esaminando preoccupata nello specchio le sue gambe, che erano forti come colonne. Per chi aveva, nella sua magrezza conquistata con la forza di volontà, fianchi robusti e una solida e prepotente ossatura. Se aveva un appuntamento con un ragazzo che le stava un po' a cuore, digiunava a pranzo o mangiava solo una mela, perché si faceva da sé i vestiti e se li faceva così stretti che temeva si squarciassero se mangiava un intero pasto. Dedicava a quei vestiti un'attenzione meticolosa e nervosa, fronte aggrottata e bocca piena di spilli, e voleva che fossero il più possibile semplici e sobri, odiando nella sorella, oltre alla pinguedine, anche la tendenza a vestirsi di sete vistose. Thank you.